Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Ennio Morricone, The Hateful Eight, my brother, di Fratellino. Grazie tanti. Buonasera signori, buonasera. Ringrazio l'Accademia per questo prestigioso riconoscimento. Thank you the Academy for this prestigious acknowledgement. Il mio pensiero va agli altri nominati, in particolare allo stimato John Williams. My tribute goes to the other nominees and in particular to the esteemed John Williams. Non c'è una musica importante senza un grande film che la ispiri. There isn't a great soundtrack without a great movie that inspires it. Ringrazio Quentin Tarantino per avermi scelto e Harvey Weinstein e tutto il team che hanno reso possibile questo straordinario film. I want to thank Quentin Tarantino for having chosen me, Harvey Weinstein and the entire team who made this extraordinary. Ennio Morricone, classe 1928, ritira l'Oscar per la colonna sonora del film di Quentin Tarantino, Hateful Eight. Film non eccezionale, lo dice un tarantiniano doc, dalla colonna sonora però eccezionale, e questo gli è stato riconosciuto. Ora tutto si dirà, visto che ci sono delle esegesi a seguire di ogni consegna di Oscar. Ricordiamo Benigni che saltò sulle sedie, ballò, cantò, abbracciò la Loring, che diceva Roberto, tutt'altro stile, tutt'altra caratura. Questa mattina già è stato sottolineato, ha fatto il discorso in italiano, non era mai successo. Probabilmente sarebbe stato capace di imbastire quelle 4-5 parole di ringraziamento in inglese, ha voluto farlo in italiano, ha voluto impugnare fino in fondo l'orgoglio dell'appartenenza al paese che gli ha dato i natali. Le foto che lo ritraggono in una forma familiare, quasi dimessa, con la moglie ancora al fianco, che l'ha guidato per tutta la vita. Insomma, l'immagine di un artista che ci ricorda molto quelle che sono a noi le immagini familiari più care. E però è un grande premio, un grande riconoscimento. Ennio Morricone ha segnato la nostra storia attraverso il cinema, perlomeno di alcune generazioni come la mia, che da ragazzi andava nei cinema pidocchietti e si guardava gli western all'italiana come una scoperta di un mondo che sembrava la sintesi perfetta di tutti i nostri giochi fanciulleschi nell'interpretare nei giardini di casa nostra, in Umbria, in Toscana, nelle Marche, in Calabria, in Sicilia, quello che erano i paesaggi da sogno irreali e lontani dei film western che ci arrivavano dall'America. Improvvisamente ci fu questa fusione del far west mitologico alle nostre latitudini, e il collante di questo, il liquido amniotico in cui poté crescere questa nostra fase di follia fanciullesca, erano proprio le musiche di Ennio Morricone. Oggi vorremmo che il pubblico, facendovele ascoltare, ci raccontasse esattamente come ho fatto io in questo istante, quando giocavo al protagonista di Un pugno di dollari, che aveva un poncio con lo scialletto fatto all'uncinetto da mia nonna, con le pistoline da 100 lire che sparavano un colpo e basta, con le capsule super boom, ma la musica di Ennio Morricone mi accompagnava quando mi arrampicavo sul noce sotto casa cercando di scrutare l'orizzonte e vedere i nemici. 800 24 00 24. Raccontateci il Morricone della vostra vita. Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it vi presenta Melog. Cronache meridiane. Non so per voi, questo per me è Per un pugno di dollari, è il film visto e rivisto, perché allora non c'erano i VHS, si andava al cinema di periferia, di marginale. Ho detto Pidocchietto e non è stato capito il termine dal giovane Valerio Rocchetti, che sta al di là del vetro. Pidocchietto è una maniera per definire, che abbiamo ereditato dai nostri padri, dava l'idea di poltroncine asfittiche, talmente sporche, talmente poco igieniche, dai quali si potessero prendere i pidocchi. Erano quei cinemini dei preti, quei cinemini di paese, quei cinemini di periferia, bucati, intrisi di fumo, di sigaretta che si fumava al cinema, intrisi anche di materia organica, di cibo, di residui di amori precoci consumati in maniera fuggiasca e del tutto arronzata su quelle poltroncine. Questo era il cinema Pidocchietto, e questa colonna sonora improvvisamente ci trasportava nella possibilità che il mondo dei nostri sogni, come è chiaro, per i ragazzi degli anni 60 c'erano gli astronauti e c'erano i personaggi del mitico Far West, come appunto in Toy Story vengono riassunti questi due universi. Beh, Morricone è stato un po' il collante di queste due storie. In studio con me oggi Giuseppe Sanzonna, che spesso conoscete. Ciao Giuseppe. Ciao. Sta qui non a caso, non soltanto in quanto esperto di cinema, regista, perché lui comunque ha dedicato uno dei suoi lavori a qualcosa che ha a che fare con Ennio Morricone. Sì, nel 2007 ho dedicato un documentario a Michele Lacerenza, che era il trombettista feticcio di Morricone e Leone, l'autore dell'indimenticabile Assolo di Per un pugno di dollari. E la cosa particolare è che lui veniva dal mondo delle bande pugliesi, quindi girava la Puglia negli anni 30-40 a bordo degli sciaraballe, queste sorta di dirigenze in una Puglia rurale verghiana, che in fondo è il bacino di immaginario da cui parte Leone. Leone era originario di Torella dei Lombardi, in Irpinia. Io nell'immaginario obliquo, liquido dell'infanzia, vedevo il sud Italia nelle facce ghignanti, sudate, nelle case bianche del mondo di Sergio Leone. Ecco, la musica di Morricone, abbiamo sentito prima il fischio di Alessandro Alessandroni, la tromba di Lacerenza, la sentiremo, evocavano un mondo verghiano fatale. Non c'era più quella prateria sconfinata piena di promesse di John Ford, c'era il deserto brullo della roba verghiana che Leone ha immaginato e trasferito nel suo cinema. Che poi erano i monti della Tolfa qua accanto a Roma. Sì, in realtà era l'Almeria, che sì, però era molto simile al nostro sud per certi aspetti, cioè quella Spagna arsa in cui si lotta per, non so, i dollari sono il sinonimo della roba di Verga, fondamentalmente gli indiani nemici rassicuranti nel loro essere impersonali non ci sono più. Richiamo all'attenzione del pubblico il numero 800240024. Mi rendo conto che bisogna attingere alla profondità delle proprie memorie, perché magari un nome che oggi leggiamo sui giornali è un nome che è per assonanza noto alle nostre orecchie, ma se entriamo nello specifico, facciamo sentire ciò che ha prodotto, che per tanto tempo è stato considerato, diciamo, materiale quasi di serie B, non avevano la dignità i film western spaghetti di essere considerati un genere alto di cinema. Poi Tarantino l'ha ripresi, l'ha ridignificati, l'ha ricollocato in una galleria comunque di espressività. Beh, nell'immaginario pop erano entrati in realtà abbastanza presto, forse snobbati dagli intellettuali, però sulla copertina di Life c'era Sergio Leone con la barba e gli spaghetti al posto della barba, quindi il prepotente ingresso nell'immaginario collettivo favorito dalla musica di Morricone, che è un personaggio vero e proprio del cinema di Leone. Sentiamo allora Ennio Morricone in A perdi fiato di Giuseppe Sanzonna. Per un pugno di dollari. Il film in questione è un western che la specialità finora sembrava dominio assoluto degli americani, non solamente come film ma anche come musica. Chi è la tua tromba? Perché vale la pena conoscere il nome. La tromba è molto brava. E si chiama? Michele Lacerenza. Michele Lacerenza. Dov'è Michele Lacerenza? E l'ha tagliato come un arcangelo su una nube, ci farà udire la tromba del giudizio e noi andiamo a dare un giudizio sulla tromba. Michele sapeva che il regista non voleva, che io lo volevo, e fece quel pezzo, quello che sentite ancora, quel suono di tromba così doloroso, era un suono che lui ha prodotto con la sua tromba, con le lacrime agli occhi. Ecco, spiega bene esattamente in questa intervista di chi stia parlando Ennio Morricone. Morricone racconta questo aneddoto. Lui aveva scelto la Cerenza. Morricone nasce come trombettista, conosceva la Cerenza, trombettista anche egli. E Leone, suo vecchio compagno dell'elementare di Morricone, lo sceglie per la colonna sonora. Morricone propone la Cerenza, però in voga andava Nini Rosso all'epoca come trombettista, quindi ci fu una sorta di duello fra i due, così racconta Morricone, e prevalse con questo suono fatto straziante, fatto con le lacrime agli occhi in questa prova in cui cercava di affermarsi la Cerenza, e ci riuscì arrivando su ottave sublimi. C'è un senso fatale, cupo di morte, adatto a un duello estremo come quello che avverrà fra Clint Eastwood e Volonté nel finale del film. Roberto, buongiorno. Buongiorno. Allora, io ho un ricordo di questo film qua, sono del 54, quindi facevo prima... La mia stessa età. Sì, io seguo parecchio. Allora facevo prima media e nel percorso per andare a scuola c'avevo passato davanti al cinema, io abito a Roma, su la Casilina, vabbè, c'è stato questo cinematografo e c'è stato il cartellone che poi è rimasto su piazza circa un anno, sto film, per un pugno di dollari. E mi ricordo in particolare sto la locandina del film, Clint Eastwood, che stava là col sombrero, il cappello e il sigaro, che poi era il sigaro toscano. Sì, era il toscano, totalmente improbabile, però era il sigaro toscano. Cioè. È toscano, sì, era lo stravecchio toscano. Ed era posizionato in maniera davanti al naso che sembrava, non so se posso dirlo, sembrava un caccolone enorme che ci avesse addosso al naso. Allora noi a scuola simulavamo questo duello qua, che invece che con i pistoli facevamo, capito? Col naso simulavamo sto duello. Vi sparavate il mocciolo in faccia? No, il mocciolo dovrebbe essere, ma era soltanto una simulazione. Wicked like, boom! E sparavate col naso? Sparavate? Sì, vabbè, per modo di dire, insomma, l'intenzione era quella. Beh, se c'era qualche caccola partiva. Beh, no, non c'era mai la potenzialità, ma tutto qua. Va bene, grazie Roberto. Antonio, buongiorno. Ciao Gianluca Nicoletti, buongiorno. Il mio ricordo è legato alle ripetizioni di matematica, quando io sono del 67, un tantino più giovane di voi, di lei, e mi ricordo che ci aiutava quando facevamo il primo anno delle superiori, il secondo anno delle superiori, nella matematica un amico e vicino di casa e parente, Gianni, che era un grande amante di Ennio Morricone e dei film di Sergio Leone, e quindi lui metteva in questo grosso giradischi questi 33 giri, così il cui suono veniva preceduto da quel graffio tipico. E durante... Mi sente? Sì, l'ascolto. Ecco, e durante le nostre ripetizioni era bellissimo ascoltare questa musica che anziché distraerci ci concentrava, ci predisponeva all'ascolto anche della matematica, oltre che di quelle bellissime atmosfere. Poi da lì ho scoperto sia la musica di Morricone, sia i film di Sergio Leone. E c'è un brano di Morricone che è la colonna sonora di Metti una sera a cena, che mi accompagna ancora adesso, ogni tanto quando ho voglia di riascoltare le melodie di Morricone. Poi conosco tutte le altre bellissime colonne sonore. Insomma. Questo è il mio ricordo legato a Morricone, che le volevo raccontare. 800 24 00 24, come Antonio, come Gianfranco, vorremmo, come Giampiero, vorremmo sapere esattamente quello che vi ispira Ennio Morricone. Però abbiamo sentito delle persone che appartengono più o meno alla stessa generazione ispirate all'aspetto western, ma l'aspetto più importante, Giuseppe. L'ultimo ascoltatore parlava anche di Metti una sera a cena, ovvero del languore, delle cene galanti, di una certa tipologia di soavità, di leggerezza e di eleganza femminile che anche Morricone sapeva evocare. Ecco, sentiamo la musica, così diamo modo anche agli ascoltatori poi di unire il loro ricordo a quello del nostro ascoltatore. Tu cosa vedi, Sansonna, quando senti questa musica? Florinda Balkan, vedo la bellezza di quegli anni, insomma, mi immagino poi questo immaginario trasposto che io non ho, essendo nato nel 77, però mi... Tu già da maniaco del cinema lo vedevi, non l'hai vissuto di prima mano? No, l'ho rivisto, l'ho risentito, e comunque questa tua sera da night, tutto sommato, affascinante, gustosa. Ecco questo. Beh, sai, era il sottofondo tipico che sottolineava ogni uscita dalla regola. Giampiero, buongiorno. Sì, buongiorno. L'ascolto. Sì, no, io ho un ricordo di quando ero veramente molto molto molto piccolo, avevo 14 anni, e facevo la scuola media in terza. A fine anno, come sempre, facemmo i saggi finali di danza Io insieme ad altri amici facevamo un corso di teatro come materia in più, come Ridiana. Quindi oltre alla pièce teatrale che facevamo insieme all'insegnante, che era una noiosissima cosa di Renato Fuscini, noi inventammo... Ecco, Le Veglie di Neri è un classico ottocentesco, strappalacrime, porta sfiga terribile, tutte storie di cagnolini morti, di bambini poveri. Ci divertivamo lo stesso. Di figli disgraziati. Beh, invece voi cosa facevate? E noi a un certo punto autogestimmo una, e proponemmo, e fu accettata, una scenetta praticamente, ed era una parodia del duello finale di Per un pugno di dollari, per cui nel cortile della scuola dove avveniva poi il saggio c'era il classico vecchietto ubriacone in mezzo al cortile, parte la musica di... Quello era vero, però il vecchietto era uno di voi? No, era uno di noi. Faceva il vecchietto ubriacone, sì. Eravamo tutti ragazzini. E parte appunto la musica di Per un pugno di dollari e compaiono due pistoleri ai lati del cortile, per cui si avvicinano e quindi armati, si vede con la pistola, il cinturone, eccetera, eccetera. E la musica sale, si avvicinano le donne che si buttano ai nostri piedi per non... Le compagne di classe. Sì, chiaramente, per pregarci di non fare questo duello. Arriva il becchino che ci misura le altezze, pronto per costruire la bara. E la musica sale, come nel film praticamente nel film di Sergio Leone, ci avviciniamo, siamo vicinissimi, estraiamo la pistola, iniziamo a spararci a vicenda, ma sono pistole ad acqua, e allora a questo punto ci mettiamo a insaponarci, tiriamo fuori la spugna e ci insaponiamo. E vi lavate, finalmente vi lavate le orecchie, vi lavate il collo. Eravamo veramente sudicissimi. E fu una cosa molto divertente. Quindi Giampiero ci ha raccontato la sua versione, l'edizione dell'evocazione della musica Per un pugno di dollari. È un duello fatto con pistole acqua nel cortile della scuola che impegna tutta la classe. A Tronistan. Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Vi presenta Melog, Cronache Meridiane. Dedico questo film, questa musica e questa vittoria all'Oscar a mia moglie Maria. I dedicate this award to my wife Maria, who is there watching me. Sì. Thank you. Grazie. Ecco, qui abbiamo un contrasto, l'epica e l'antiepica, per qualche dollaro in più che è ancora più epico di Per un pugno di dollari, poi il buono, il brutto e il cattivo, a me piacquero in crescendo, anche perché erano armi sempre più raffinate, la storia era sempre più elaborata, a me piacevano, comunque era un mondo epico le cui musiche dovevano sottolineare questa epicità, e poi la figura di Morricone, la figura familiare di Morricone, chissà secondo te che effetto hanno fatto gli americani, è proprio stato rappresentato in pieno quello che può essere un genio italiano nella sua normalità familiare? Era un mondo epico, ma era anche un mondo picaresco, se vuoi. Infatti il buono, il brutto e il cattivo ha anche echi della grande guerra, se vogliamo, cioè la capacità, così come Per un pugno di dollari, che era ispirato a Gioimbo di Kurosawa, fortemente ispirato a Gioimbo di Kurosawa, al mondo dei samurai, aveva insomma dei tratti anche legati a un tipo di epica diverso, cioè, sicuramente c'era l'aspetto fortemente picaresco, fortemente legato anche alla commedia e all'arrecchino servo di due padroni, quindi a tutto un mondo anche goldoniano di furbizia italica, di forte legame rurale col mondo del verismo che ti raccontavo prima, in cui questi gaglioffi sudati dalle barbe ispide, in cui il più inquietante e misterioso era sempre Clint Eastwood, che ha qualcosa di nordico, di sospeso nei suoi silenzi, ma gli altri avevano le facce di Volonté, e di Wallach, che era italianissimo, se vogliamo, nel suo aspetto ipermascherato, da maschera goldoniana. Quindi c'era questo tipo di irruzione nell'immaginario che nulla aveva a che fare, se vogliamo, con gli eroi granitici alla John Wayne del mondo di Ford. Appunto Leone diceva: quando io guardo fuori dalla finestra vedo il deserto, lui vedeva, Ford invece vedeva verdi praterie epiche e ferrovie da costruire. Danilo Masotti, buongiorno. Buongiorno. Chiamo Danilo Masotti per una lettura, lui ha fatto, l'ho vista circolare in rete questa mattina, che in fondo conferma quella che è la sua osservazione di anni, di quelli che lui chiama gli Umarell, che questa mattina non mi sento di trattare con un taglio ironico, a presa in giro. Mi spieghi meglio quello che ha voluto esprimere questa mattina nella tua lettura della foto di Morricone accanto alla moglie. Qui il concetto di Umarell entra in una dimensione però che non avevi mai trattato te. Sì, rientra nella classica dimensione del rapporto tra l'Umarell e la propria compagna, la propria moglie, perché l'Umarell non ha raramente una compagna, proprio una moglie, proprio così. Quindi il matrimonio, l'Umarell Morricone che ringrazia la moglie, perché come dice la tradizione umarellica, dietro ad ogni grande Umarell, anzi accanto a ogni grande Umarell c'è una grande daura, una grande signora. Ecco, ma come fa un Umarell a vincere un Oscar? Questa è la cosa che domanda, che nessuno, l'Umarell, che le sue attività sono legate a una sorta di bricolage domestico, non sembra capace comunque di salti poetici o creativi di questa portata. Come fa a crearsi, a stabilire, a esplodere la rabbia artistica e poetica in una vita quotidiana di Umarell? L'artista ce lo immaginiamo dissoluto, fuori dalle regole, fuori dagli schemi. Invece lui umarellicamente è riuscito a conquistarsi un Oscar. Sì, perché alla base c'è un'enorme sicurezza nelle sue capacità da parte della compagna. E quindi l'Umarell, che di solito viene respinto dalla propria moglie, nel senso che viene mandato fuori, fai qualcosa. Spesso l'Umarell non utilizza il suo tempo in maniera così creativa come Morricone, però l'Umarell, se stimolato, può dare grandi soddisfazioni e poi ringrazierà la moglie perché lo ha lasciato fare. Gli ha lasciato la corda libera, la corda lunga. Grazie Danilo Masotti. Tina, buongiorno. Buongiorno. Aspettiamo il suo ricordo. Finora abbiamo sentito ricordi maschili, perché mi sembrava più legato all'universo maschile, ma sì, lei no, ci contraddice. Ma in realtà è una cosa più che altro di cuore, nel senso che ho ricordato il film C'era una volta il West, dove c'era quella bellissima colonna sonora, e l'ho riproposta a mia figlia, che ha sposato recentemente in un posto mistico, una cosa spettacolare. E una soprano ha cantato con la sua voce meravigliosa la musica di C'era una volta il West di Ennio Morricone, ed è stata una cosa eccezionale. Il prete, il sacerdote non voleva accettare perché non era una musica da chiesa, però al momento in cui l'ha sentita si è reso conto che effettivamente era veramente spettacolare, meravigliosa. Beh, okay, e quindi cantano l'Ave Maria, che è un canto profano, non c'ha nulla di sacro. No, in realtà, però quella è stata una cosa veramente, ha toccato tutti, per cui Ennio Morricone sta nei nostri cuori. Giulio, buongiorno. Giulio. Volevo dire soltanto una cosa. Io avevo mio zio che era Nino Culasso, un trombettista, che ha lavorato spesso con la Cerenza, e in quel film ebbe una parte, insomma, c'è un comparto, insomma, per un pugno di dollari. Per un pugno di dollari, esatto, sì. E le cose le raccontava suo zio? Niente, raccontava, insomma, come erano andate le scene, come era andato un po' tutto, l'andamento, gli stress che c'erano sul set, poi ripassati, e poi, insomma, l'abilità, la grande abilità e la grande esperienza della Cerenza con la tromba, che veramente con le lacrime agli occhi riuscì a fare quel pezzo che poi diventò famoso. Ecco, Giuseppe Sansone, vediamo cosa puoi aggiungere di filologico al ricordo del nostro ascoltatore. Nino Culasso ha lavorato anche molto nel Buono, nel Brutto e nel Cattivo, se non sbaglio, hanno condiviso molto, perché in Per un pugno di dollari l'assolo, quello del duello, è proprio tutto della Cerenza, che Morricone definisce anche sancisce come coautore di fatto anche in qualche modo del pezzo, perché certe fioriture, racconta nel documentario, nell'intervista che gli ho fatto, certe fioriture sono proprio sue, certe invenzioni sul tema sono proprio tipiche di La Cerenza, che a mio parere riportava anche quell'esperienza appunto fatale legata alla musica sacra, cioè un senso di fatalità opprimente, cupa, legata alla morte, legata anche alle processioni, al sacro. Il padre di Lacerenza e Giacomo Lacerenza era autore delle storiche marce funebri che ancora si suonano nelle notti sacre, del venerdì sacro a Taranto, quindi c'è questo senso di cupezza molto forte. Alessandro, buongiorno. Sì, buongiorno, io volevo dire un paio di cose, se mi avete tagliato selvaggiamente le gambe. No, è perché lei le racconti secondo la sua esperienza, è diverso. No, per carità, è che mio figlio si è sposato a settembre e dopo il sì ha fatto cantare, naturalmente, da un soprano, e c'era una volta l'Uesto, quindi è una cosa che è stata bruciata un secondo fa. No, vabbè, perché no, invece no, ci dà un dato importante dal punto di vista proprio statistico di analisi del costume. C'è un'usanza, o perlomeno è diffuso, di usare questo tipo di musica come canto di accompagnamento a una cerimonia nuziale. Tra l'altro un ragazzo di 30 anni che l'ha scelto comunque lui, cioè non è della generazione che l'ha visto al cinema, diciamo, in prima visione, ma gli è rimasto nel ricordo. Assolutamente, assolutamente. E la seconda è che in un posto sopra Bergamo negli anni 70 anche noi facemmo un film che allora si intitolò Ricius. Come si chiamava il titolo? Ridica il titolo, che si è capito. Ricius. Perché il protagonista era tale Rizzo, per cui si chiamava così. E la cosa bella fu che un giorno arrivò da Bergamo una troupe della Rai, perché avevano detto che degli studenti stavano facendo un film. Era un film fatto in casa alla Nanni Moretti. Ma neanche. Peggio ancora. Con una vecchia, un 8 mm recuperata non so dove, una cosa fatta assolutamente per ridere, per cui costoro se ne andarono abbastanza sconsolati quando videro il livello del prodotto. Vabbè, però ecco, sono due cose che, come vede, non è solo uno che pensa e che fa, ma magari... Vedi, è stato importante quello che le diceva. Grazie. Riccardo, buongiorno. Riccardo non c'è, allora Filippo. Pronto? Chi è, Riccardo? No, io sono Filippo. Filippo, Riccardo, lo recuperiamo. Filippo Figari, buongiorno, sì. Piacere parlare con lei. Sentiamo allora. Io ho ricordi bellissimi legati alle musiche di Ennio Morricone. Io, come ricordi, ho Giù la testa, stupendo, con James Coburn, un film meraviglioso con una musica spettacolare, e ancora di più Mission, con Robert De Niro e Jeremy Irons. Allora, fermiamoci un attimo, intanto cominciamo a farne sentire una delle due che ha citato, così... Mission, per esempio, non ne parla mai nessuno, ma è una delle colonne sonore più belle che abbia scritto Ennio Morricone. Non ne parla nessuno, infatti non c'ho nemmeno la scaletta di quelle che ho a disposizione. L'altra qual era? L'altra è Giù la testa, stupendo. Giù la testa ce l'abbiamo, è il famoso Chanson. Io mi ricordo... Fermo lì, senta un attimo di raccoglimento. Chi sarà che viene Sean Sean? No, Sean Sean è il protagonista, è James Coburn, quindi è il suo modo di chiamarlo. Sean. Ecco, lei Filippo cosa le suggeriva questa musica? No, niente, io mi ricordo che mio padre, buonanima, mi diceva stasera di Porta, siccome anche lui era un appassionato di film di Sergio Leone, musica, insomma, mi diceva stasera ti porto a vedere, se sai la tabellina del 3 ti porterò a vedere Giù la testa, e prima di andare a vedere questo film mi scrivevo la tabellina del 3 dappertutto, sulle mani, le braccia, pur di non perderlo, pur imparare quella tabellina del 3, quindi sono molto legato a quei ricordi. Poi per me, insomma, questa settimana, poi insomma ho 50 anni, faccio il 4 marzo venerdì faccio 50 anni, quindi importante. Intanto in bocca al lupo e auguri per 50 anni, è una sciocchezza, 50 anni sono pochissimi, è ancora di vita lucida abbastanza avanti. Cito qualche ricordo proprio da piccolo mondo antico, anche perché in fondo questo è il punto di riferimento di Morricone, e sembra singolare che invece abbia colto in lui Tarantino un altro tipo di lettura. All'oratorio nel 69, quando partiva la musica per qualche dollaro in più, iniziava il catechismo. Un altro ascoltatore dice: il mio Morricone riferimento era il professore di tirocinio all'istituto agrario di San Giovanni in Fiore, Agostino Carbone, che ogni lezione in campo fischiettava tutte le colonne sonore di spaghetti western. Questo è Giacomo da Caccuri. il Morricone Frimento, se l'ha detto altre volte, e tutti dicono, dice, ma mica è morto, stiamo parlando perché ha vinto un premio Oscar, non perché gli sia successo qualcosa. Quindi si attesta come nome sacro, anche prima si parlava dei matrimoni, di momenti particolari, cruciali dell'esistenza delle persone, e nell'immaginario come musica sacra. Una sottolineatura liturgica a momenti importanti della vita, vedi che ha colto il senso, probabilmente forse era questo la venatura epica che ha colto Tarantino in quella che noi consideriamo, chiamandoli semplicemente spaghetti western, già era denigratoria la cosa, era un'emulazione fallita rispetto a Modello, che a sua volta era già un'emulazione di un'epopea che non sa bene quali siano stati i suoi confini e i suoi margini. L'emulazione fallita che però è stata poi molto subito rielaborata, in realtà ricatturata molto presto, perché ha spiazzato anche il mondo americano sistematico con la sua retorica anche di progresso a spese di altre etnie, ma insomma, quindi la ferocia che incarnava Leone era perfetta. 800 24 00 24, ci fermiamo soltanto un istante, continuate a chiamarci e a raccontarci i brandelli della vostra vita che sono stati in qualche maniera sottolineati e sonorizzati dalle musiche di Ennio Morricone. Melog, cronache meridiane. Cosa vedi te, Sansone, con questa musica? Io vedo il sospetto che si insinua in una questura, in questa brillantina Linetti, questo odore di dopo barba, queste camicie, e del commissario metafisico Gian Maria Volontè, che vuole provare la sua camminata soprattutto. Sì, sì, quella camminata, quella durezza istituzionale che approda in questa scivola, in questa questura, e vuole provare la propria insospettabilità. Ma la musica di Morricone è sempre stato un personaggio aggiunto, è una sintesi dei personaggi, ha svelato e giocato con l'anima dei personaggi. Leone faceva ascoltare ai suoi attori durante la scena la musica di Morricone, che avrebbero avuto quando loro poi stavano per entrare nella sequenza, per viverla la sequenza fino in fondo, quindi veramente una dimensione in più durante la creazione della scena, della sequenza, non soltanto poi una sottolineatura, una sonorizzazione a posteriori. No, un pezzo di sceneggiatura, un pezzo di vita cinematografica che scorreva a fianco sulla pelle degli attori e dei personaggi. Flo, buongiorno. Flo. Grazie. Sì, per Flo. Noi siamo una famiglia, quindi siamo tutti e tre innamorati. Noi abbiamo introdotto nostro figlio Lorenzo di 20 anni a questa musica, è diventato alcune battute. Come è composta la vostra famiglia? Noi siamo tre, una mamma primipara attempata che sono io, sì, sono una 60enne con un figlio di 20, mio marito. Vabbè, prima attempata, 40 anni l'ha avuto nella media. E come no, me l'hanno detto subito, signor Nicoletti, me l'hanno detto subito. Comunque, sì, ma basta essere 27 anni, 30 anni per essere primipara attempata. E che vuol fare? Vabbè, senta, e sì, era così, a 28 scatta la definizione. Vabbè, senta, Vento l'ha arrivata a 60 anni, primi e però che vuol fare, ma i tempi sono passati, come vede. Io sono femmina, lui è maschio, io ho un figlio di 20 anni, lui ce l'ha da allattare, insomma, vabbè. Senta, la cosa bella... Trovare la tetta sarà difficile, comunque andiamo avanti. Appunto, va bene, e lì è un altro argomento. Ma per noi i film e la musica soprattutto di Morricone è un lessico familiare. Di tanto in tanto in casa ci diciamo fra di noi, miccia corta, al cuore Ramona, al cuore, Nino! E poi che fregatura ti ho dato, amico mio. Tutti, sì, ma in che occasione lei dice miccia corta a suo marito, ad esempio? Miccia corta a mio marito non la dico. Eh no, a chi lo dice? Ce lo diciamo fra di noi. Fra di voi, siete in tre, o no? Lo dice a suo marito o a suo figlio? Al cuore Ramon, quando il figlio fa girare le scatole, al cuore Ramon. E quando... E gli tira una randellata in testa. E poi, senta, la cosa più bella è che Lorenzo, all'università... primo anno entra uno alle sue spalle con quelle aule, no, come sono quelle là a balconata, e questo da lontano dice shon shon shon shon. Lorenzo si gira e dice ah, anche tu shon shon, e si sono riconosciuti su questa cosa bellissima. bellissima, perché due sconosciuti, due ventenni, uniti da Sean Sean, si sono subito riconosciuti con un passato comune, per quello che parlo di lessico, no? Familiare, che passa per certe... L'ha tirato su bene, si vede, a botte di Sean Sean e Miccia Corta. Giuseppe Sanzona, su questo mix di ricordi, di sinestesie fra lessico familiare, odore di soffritto, carezze materne e Miccia Corta. Mi piace molto la definizione del lessico familiare. La frase "al cuore Ramon" fu introdotta in post-produzione, ma l'ha raccontato l'aiuto regista, perché si immaginarono i pidocchietti che raccontavi tu, le borgate romane, dice, ma perché non gli spara in testa? Perché, se ricordi, nel finale si mette una lastra di metallo Clint Eastwood sotto il ponte, certo, e volontà gli spara. C'era la corazza. Però se gli sparava in testa, tra l'altro questa voce appunto che viene da un'oltretomba rimbombante di Enrico Maria Salerno, quindi perché non sparare in testa? Però avendo detto la frase all'inizio, introdotto anche dopo... Anche la gamba poteva zopparlo, poi lo finiva a calci. Però, no, però doveva rispettare la frase epica che è stata introdotta dopo e quindi è diventata poi epica, ma era una pezza che diventa epica. È meraviglioso, c'è tutta l'eternità, il genio italico, la bravura di Don Savio si chiamava. Il tempo dell'illusione è un tempo assoluto, è composto di un'infinità di tempi stratificati, fatti proprio, ecco, dalla musica, dalla sceneggiatura, dagli inserti, anche dalle botte di culo, che una frase rimane epica perché diventa naturalmente un tormentone. Giorgio, buongiorno. Buongiorno a voi. Sì. Volevo partecipare alla vostra trasmissione dicendo che alla fine degli anni 60, il periodo dei film proprio, Sergio Leone, Ennio Morricone e tutta una serie di tantissimi film di quel tipo, nel mio paese, un paese del basso mantovano, ricco di portici, allora i bar erano tantissimi che appunto davano su questi portici e non era, era del tutto probabile trovare avventori che uscivano, si incontravano sotto il portico, si guardavano negli occhi e tiravano fuori la pistola in un duello epico, come state voi parlando, e c'era sempre qualcuno che fischiettava la canzone o la musica che accompagnava il duello. Sto pensando che questa cosa succedeva negli anni 67, 66, gli anni di quei film lì, e se oggi si dovesse fare la stessa cosa, probabilmente si scatenerebbero le forze di polizia arrestando persone a destra e a sinistra. Allora era un gioco burlone che tutti facevano ed era del tutto innocente. Franco, buongiorno. Sì, buongiorno. Al di là che io sono molto affezionato a Ennio Morricone, perché insomma è fortissimo, secondo me la frase che ha ringraziato la moglie è stata veramente di una grandezza unica, soprattutto in questo periodo, in sostanza, che non la facciamo nemmeno tanto, chi doveva ringraziare, stava con la moglie, non è potuto ringraziare la fidanzata. Sì, però ho capito, però insomma è un ringraziamento, lui e la moglie, ma è un ringraziamento insomma secondo me grandissimo, si parla sempre di lui, in realtà lui sì c'è, però è vuol dire sì, ma che quando torna a casa le pezzette di lana gliele mette la moglie, è chiaro, è logico, si vede che è un rapporto fantastico, non simbiotico. Non è così logico, soprattutto in questo periodo, insomma, dare importanza al mondo femminile anche da parte nostra, che tante volte si sente delle discussioni un po' anche, sì, anche banali, diciamo. Secondo me è stato un grande gesto e soprattutto su un momento un po' particolare che stiamo vivendo in sostanza. Va bene, lei l'ha visto, ma molti l'hanno visto come conferma di qualcosa di solido, che è un modello che oggi sembra in continua discussione, e Morricone ha voluto ribadirlo. È questa la cosa più importante per te, Sanzon? No, per me è quanto lui abbia condizionato e permeato l'immaginario, anche attingendo al popolare, trasformandolo in qualcosa di sublime. C'è tutta la cultura italiana apparentemente di serie B, che a Tarantino piace molto, ma quanto di vitale, quanto di popolare c'è di vitale c'è nel popolo. Tarantino l'ha assunto e Morricone l'ha incarnato. Però di Morriconesco nell'ultimo film di Tarantino c'era veramente poco. Sì, forse è un po' particolare, anche è un film che rielabora, manierista se vogliamo questo, e quindi forse anche era quello... un'auto tarantinizzazione che ha voluto cercare una sottolineatura aulica proprio perché ne è consapevole, è un profondo conoscitore comunque delle molle e degli stimoli polari, quello che noi abbiamo confermato questa mattina. Morricone è fortemente ancorato in un immaginario popolare, in situazioni, meccanismi, suggestioni che probabilmente nemmeno lui aveva mai immaginato, perché lo ha applicato a pistoleri che si scannavano e le mamme lo vedono come il motivo di tenerezza e dolcezza per rivolgersi ai loro figli. Grazie Giuseppe Sansonna, grazie a tutti, alla prossima.